un parrucchiere di 100 lire in collaborazione con Credo Idiota che ha fatto Rover 25 Tuning. In collaborazione con la Fricasordi Production presentiamo il bon ton della gioventù Chalanz in salsa rosso blu. Giovanni e Nicola. Giovanni e Nicola stanno per uscire dall'ospedale dopo l'ennesima scazzottata con Maruzzo Hulk Hogan. Nico! Oh, come andiamo? Pigliamo un motorino al parcheggio e andiamo a casa con un nipusso giù. E lo so, ma Maruzzo ogni volta non rovente i piedi, comunque lasciamo stare. Nico, senta chi sta andando sul motore, che marmette Polini. Giovanni, e chi sono te adesso? Tieni sì, mica una ducata. Andiamo, salia, mingio! Dopo essersi avviati, i nostri eroi avvistano da lontano un posto di blocco dei carabinieri. Giovanni, va chiaro, vuoi che ci sui sberri? Vuoi che ne stanno hanno fermato? Buongiorno, mi favorisca il libretto dell'assicurazione. L'assicurazione? Marescia, ti assicuro un mezzo che va buono. Senta stronzetto, io non ho voglia di scherzare. Marescia, ma che un problema fessiare. E il casco? Un casco mi dà fastidio. Un zabbino con l'abbigliamento, mica su di Louis Vuitton. Sì, sfotta. E le gomme pure lisce, bene. Sì, avete ragione, Marescia, ma sopra le vanno che è una meraviglia. Paradesso a camigliatello, e quindi come la mettiamo? Oh, mendiamo in terra, che sei pure il tuo cavalletto. Ci state prendendo in giro! E allora noi vi portiamo dentro! Iaramado, va finisce sempre così, Iaramadosco! Giovanni e Nicola vengono portati alla casa circondariale di Cosenza e vengono accompagnati nella loro cella, ma trovano una sorpresa. Nico, chi sta dentro la cella? Ni minano. Sì, e me così ma l'executive. Spero che non mi mandano con un marocchino. Nico, guarda che ne ho compagni cella, ma è Maruzzo! Io manista! Ma io non lo so che sono due, ma non è venuto a mezzi. Ricordiamo ai signori utenti che possono ritrovare i DVD di Giovanni e Nicola presso le migliori edicole e anche le peggiori cantine di Ariforma, a Vineggio da Anivi e sotto Palazzo. Sono stato dal mio amore. Mi